Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tony Servillo legge Il giorno della civetta, di Leonardo Sciascia. Era l'indolente sera di Parma, toccata da una struggente luce che era già lontananza, memoria, indicibile tenerezza. Il capitano Bellodi, come in una dimensione già nella memoria specchiata, camminava per le strade della sua città e aveva presente e viva, peso di morte e di ingiustizia, la Sicilia lontana. Era stato chiamato a Bologna a testimoniare come verbalizzante in un processo e finito il processo non si era sentito di tornare in Sicilia, nella stanchezza dei nervi trovando più dolce del consueto e più riposante una vacanza a Parma, in famiglia. Aveva perciò chiesto una licenza per malattia e gliel'avevano accordata, di un mese. Ora, quasi a mezzo della licenza, da un fascio di giornali locali che il brigadiere D'Antona aveva avuto la buona idea di mandargli, apprendeva che tutta la sua accurata ricostruzione dei fatti di esse era stata sfasciata come un castello di carte dal soffio di inoppugnabili alibi. O meglio, era bastato un solo alibi, quello di Diego Marchica, a sfasciarlo. Persone incensurate, assolutamente insospettabili, per censo e per cultura rispettabilissime, avevano testimoniato al giudice istruttore l'impossibilità che Diego Marchica si fosse trovato a sparare su Colasberna e che fosse stato riconosciuto dal Nicolosi, trovandosi Diego quel giorno e nell'ora in cui veniva commesso il delitto alla bella distanza di 76 chilometri. Quanti ce ne sono, insomma, da S a P, dove Diego, in un giardino di proprietà del dottor Baccarella e sotto gli occhi del dottore, uomo uso a levarsi dal letto per tempo e a seguire i lavori in giardino, stava occupato nel sereno e pacifico compito di far piovere da un tubo a spruzzo acqua sui prati. E di ciò non soltanto il dottore, ma contadini e passanti, tutti certi della identità di Diego, potevano con limpida memoria testimoniare. La confessione resa al capitano Bellodi, aveva spiegato Diego, era dovuta a una sorta di ripicco. Il capitano gli aveva fatto credere di essere stato infamato dal pizzuco e lui, accecato dall'ira, aveva voluto restituire il colpo e si era infamato da sé pur di dar guai al pizzuco. Da parte sua, trovandosi di fronte all'infamità di Diego, il pizzuco aveva tirato fuori un fuoco d'artificio di menzogne, caricando se stesso di piccole colpe pur di mettere la pietra al collo al Marchica che lo aveva infamato. Il fucile? Ecco, Pizzuco doveva rispondere di abusiva detenzione e il fatto di aver dato incarico al cognato di farlo sparire soltanto alla preoccupazione di sapere l'arma vietata dalle leggi era dovuto. In quanto a Don Mariano, dai giornali fotografato e intervistato, inutile dire che il paziente rammendo di indizi che il capitano e il procuratore della Repubblica avevano fatto a suo carico si era dissolto nell'aria e una tadema di innocenza gli illuminava la testa greve, pareva anche dalle fotografie, di saggia malizia. A un giornalista che gli aveva chiesto del capitano Bellodi, Don Mariano aveva risposto «è un uomo» e insistendo il giornalista per sapere se intendeva dire che come uomo era soggetto ad errore o se invece non mancasse un aggettivo a completare il giudizio, Don Mariano aveva detto che aggettivo è aggettivo, l'uomo non ha bisogno di aggettivo e se dico che il capitano è un uomo e basta. Risposta che il giornalista giudicò sibillina e dettata sicuramente da irascibilità, probabilmente da malanimo. Ma Don Mariano aveva voluto esprimere, come un generale vittorioso nei confronti dell'avversario sconfitto, un sereno giudizio, un elogio. E così veniva ad aggiungere un tocco di ambiguità, piacere ed irritazione ai sentimenti che si agitavano tempestosi nell'animo del capitano. Altre notizie segnate in rosso dal brigadiere D'Antona dicevano che, naturalmente, Le indagini sui tre omicidi erano state riaperte e la squadra mobile di pubblica sicurezza era già sulla buona strada per la soluzione del caso Nicolosi, avendo fermato la vedova e l'amante di costei, certo Passerello, sui quali fortissimi indizi, inspiegabilmente trascurati dal capitano Bellodi, gravavano. Ancora una notizia segnata in una pagina di cronaca provinciale diceva che il comandante della stazione di S, maresciallo maggiore Arturo Ferlisi, era stato trasferito a sua domanda ad Ancona, e il corrispondente del giornale, riconoscendone l'equilibrio e l'abilità, gli dava viatico di saluti ed auguri. Rimuginando queste notizie e vampando di impotente rabbia, il capitano andava a caso per le strade di Parma e pareva diretto ad un appuntamento e preoccupato di giungervi in ritardo. E non sentì il suo amico Brescianelli che dal marciapiede opposto lo chiamava per nome, e restò sorpreso e contrariato quando l'amico lo raggiunse e gli si parò davanti, sorridente, affettuoso, scherzosamente reclamando almeno un saluto in nome dei lieti e ahimè lontani giorni del liceo. Bellodi con serietà si scusò per non aver sentito. Disse che non si sentiva bene, dimenticando che Brescianelli era medico e non avrebbe facilmente mollato un vecchio amico che non stava bene. Infatti indietreggiò di un passo per osservarlo meglio, constatò che era dimagrito e si vedeva dal cappotto che gli stava addosso un po' largo e cascante. Poi si avvicinò a guardarlo negli occhi, che avevano nel bianco, disse, un po' di terra di Siena, che voleva dire disfunzione epatica, e domandò dei sintomi e nominò medicine. Bellodi ascoltava con un sorriso distratto. «Mi senti?» disse Brescianelli. «O forse ti sto seccando?» «No, no», protestò Bellodi, «ho tanto piacere a rivederti. Anzi, dov'è che vai?» E senza attendere risposta prese sotto braccio l'amico e disse «Ti accompagno». E appoggiandosi al braccio dell'amico, un gesto che aveva quasi dimenticato, sentì davvero bisogno di compagnia, bisogno di parlare, di svagare in cose lontane la sua collera. Ma Brescianelli domandò della Sicilia, com'era, come ci si stava, dei delitti. Bellodi disse che la Sicilia era incredibile. Eh sì, dici bene, incredibile. Ho conosciuto anch'io dei siciliani, straordinari. E ora hanno la loro autonomia, il loro governo, il governo della Lupara, dico io. Incredibile, è la parola che ci vuole. Incredibile anche l'Italia. E bisogna andare in Sicilia per constatare quanto è incredibile l'Italia. Forse tutta l'Italia va diventando Sicilia. A me è venuta una fantasia leggendo sui giornali gli scandali di quel governo regionale. Gli scienziati dicono che la linea della palma, cioè il clima che è propizio alla vegetazione della palma, viene su verso il nord di 500 metri, mi pare, ogni anno, la linea della palma. Io invece dico la linea del caffè ristretto, del caffè concentrato, e sale come l'ago di mercurio di un termometro questa linea della palma, del caffè forte, degli scandali, su per l'Italia, ed è già a Roma. Si fermò improvvisamente e disse ad una giovane donna che veniva loro incontro ridente, «Sei incredibile anche tu, bellissima». «Come anch'io, e l'altra chi è?» «La Sicilia, donna anche lei, misteriosa, implacabile, vendicativa e bellissima, come te». Il capitano Bellodi che ti presento stava raccontandomi della Sicilia. E «Questa è Livia», disse rivolto a Bellodi. «Livia Giannelli, che tu forse ricordi bambina, e ora è donna, e di me non vuole saperne». «Lei viene dalla Sicilia?» domandò Livia. «Sì», disse Brescianelli. «Viene dalla Sicilia. Sta laggiù a fare, come dicono loro, lo sberrofatante». E pronunciò l'espressione rifacendo la voce cavernosa e l'accento catanese di Angelo Musco. «Adoro la Sicilia», disse Livia. E si mise tra loro prendendoli a braccetto. «Questa è Parma», pensò Bellodi con improvvisa felicità. «Questa è una ragazza di Parma. Sei a casa tua, al diavolo la Sicilia». Ma Livia voleva sentire le cose incredibili della incredibile Sicilia. «Io sono stata a Taormina una volta e a Siracusa per le rappresentazioni classiche, ma mi dicono che per conoscere la Sicilia bisogna andare verso l'interno. Lei in quale città risiede?» Bellodi disse il nome del paese. Né Livia né Brescianelli lo avevano mai sentito. «E com'è?» domandò la ragazza. Un vecchio paese con case murate in gesso, con strade ripide e gradinate, e in cima a ogni strada, a ogni gradinata, c'è una brutta chiesa. E gli uomini? Sono molto gelosi, gli uomini. In un certo modo, disse Bellodi. E la mafia? Cos'è questa mafia di cui parlano sempre i giornali? Già, cos'è la mafia? Incalzò Brescianelli. È molto complicata da spiegare, disse Bellodi. È incredibile, ecco. Cominciava a scendere un nevischio pungente. Il cielo bianco prometteva nevicata lunga. Livia propose che l'accompagnassero a casa. Sarebbero venute delle amiche, avrebbero ascoltato formidabili pezzi di vecchio jazz, dischi miracolosamente reperiti, e ci sarebbe stato buon whisky di Scozia e cognac Carlos Primero. «E da mangiare?» chiese Brescianelli. Livia promise che ci sarebbe stato anche da mangiare. Trovarono la sorella di Livia e due altre ragazze distese su un tappeto davanti al fuoco. I bicchieri a lato e il funerale al Vieux Colombier, New Orleans, che batteva ossessivo dal giradischi. Anche loro adoravano la Sicilia. Abbrividirono deliziosamente dei coltelli che, secondo loro, la gelosia faceva lampeggiare. Compiansero le donne siciliane e un po' le invidiarono. Il rosso del sangue diventò il rosso di Guttuso. Il gallo di Picasso, che faceva da copertina al Bell'Antonio di Brancati, dissero delizioso emblema della Sicilia. Di nuovo abbrividirono pensando alla mafia e chiesero spiegazioni, racconti delle terribili cose che certamente il capitano aveva visto. Bellodi raccontò la storia del medico di un carcere siciliano che si era messo in testa, giustamente, di togliere ai detenuti mafiosi il privilegio di risiedere in infermeria. C'erano nel carcere molti malati ed alcuni addirittura tubercolotici che stavano nelle celle e nelle camerate comuni, mentre i caporioni, sanissimi, occupavano l'infermeria per godere di un trattamento migliore. Il medico ordinò che tornassero ai reparti comuni e che i malati venissero in infermeria. Né gli agenti né il direttore diedero seguito alla disposizione del medico. Il medico scrisse al ministero e così una notte fu chiamato dal carcere. Gli dissero che un detenuto aveva urgente bisogno del medico. Il medico andò. Ad un certo punto si trovò dentro il carcere solo, in mezzo ai detenuti. I caporioni lo picchiarono, accuratamente, con giudizio. Le guardie non si accorsero di niente. Il medico denunciò l'aggressione al procuratore della Repubblica, al ministero. I caporioni, non tutti, furono trasferiti ad altro carcere. Il medico fu dal ministero esonerato dal suo compito, visto che il suo zelo aveva dato luogo ad incidenti. Poiché militava in un partito di sinistra, si rivolse ai compagni di partito per averne appoggio. Gli risposero che era meglio lasciar correre. Non riuscendo ad ottenere soddisfazione dell'offesa ricevuta, si rivolse allora a un capo mafia, che gli desse la soddisfazione, almeno, di far picchiare nel carcere dove era stato trasferito uno di coloro che lo avevano picchiato. Ebbe poi assicurazione che il colpevole era stato picchiato a dovere. Le ragazze trovarono delizioso l'episodio. Brescianelli lo trovò terribile. Le ragazze prepararono dei tramezzini, mangiarono, bevvero whisky e cognac, ascoltarono jazz, parlarono ancora della Sicilia, e poi dell'amore, e poi del sesso. Bellodi si sentiva come un convalescente, sensibilissimo, tenero, affamato. Al diavolo la Sicilia, al diavolo tutto. Rincasò verso mezzanotte, attraversando tutta la città a piedi. Parma era incantata di neve, silenziosa, deserta. In Sicilia le nevicate sono rare, pensò, e che forse il carattere delle civiltà era dato dalla neve o dal sole, secondo che neve o sole prevalessero. Si sentiva un po' confuso, ma prima di arrivare a casa sapeva, lucidamente, di amare la Sicilia e che ci sarebbe tornato. «Mi ci romperò la testa», disse a voce alta. Nota dell'autore. Scusate la lunghezza di questa lettera, scriveva una francese o un francese del Gran Settecento, poiché non ho avuto tempo di farla più corta. Ora io, per quanto riguarda l'osservanza di quella che è la buona regola di far corto anche un racconto, non posso dire mi sia mancato il tempo. Ho impiegato addirittura un anno, da un'estate all'altra, per far più corto questo racconto. Non intensamente, si capisce, ma in margine ad altri lavori e a ben altre preoccupazioni. ma il risultato cui questo mio lavoro di cavare voleva giungere era rivolto più che a dare misura, essenzialità e ritmo al racconto, a parare le eventuali e possibili intolleranze di coloro che dalla mia rappresentazione potessero ritenersi più o meno direttamente colpiti. Perché in Italia, si sa, non si può scherzare né coi santi né coi fanti, e figuriamoci se invece che scherzare si vuol fare sul serio. Gli Stati Uniti d'America possono avere nella narrativa e nei films generali imbecilli, giudici corrotti o poliziotti farabutti. Anche l'Inghilterra, la Francia, almeno fino ad oggi, la Svezia e così via. L'Italia non ne ha mai avuti, non ne ha, non ne avrà mai. Così è. E bisogna, come dice Giusti, di quegli ambasciatori cui Barnabò Visconti fece ingollare una bolla, cartapecora e piombi di sigillo, bisogna striderci. Non mi sento eroico al punto da sfidare imputazioni di oltraggio e vilipendio. Non mi sento di farlo deliberatamente. Perciò, quando mi sono accorto che la mia immaginazione non aveva tenuto nel dovuto conto i limiti che le leggi dello Stato, e più che le leggi, la suscettibilità di coloro che le fanno rispettare, impongono, mi sono dato a cavare, a cavare. Sostanzialmente, dalla prima alla seconda stesura, la linea del racconto è rimasta immutata. È scomparso qualche personaggio, qualche altro si è ritirato nell'anonimo, qualche sequenza è caduta. Può darsi il racconto ne abbia guadagnato, ma è certo comunque che non l'ho scritto con quella piena libertà di cui uno scrittore, e mi dico scrittore soltanto per il fatto che mi trovo a scrivere, dovrebbe sempre godere. Inutile dire che non c'è nel racconto personaggio o fatto che abbia rispondenza, se non fortuita, con persone esistenti e fatti accaduti. Tony Servillo ha letto Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. Realizzazione tecnica di Ciro Lutricuso, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.